Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. A costo di ripetermi fino allo sfinimento le solite informazioni di servizio, che però sono utilissime per noi, ma ancor prima per voi. La prima è la mail unabusoalgiorno@radio24.it, alla quale rivolgersi per storie. Mi raccomando, che non siano personali, personalissime, perché ahimè quelle, e ne arrivano tante, non posso prenderle in considerazione. Secondo elemento che vi sottopongo è il mio blog Guardie o Ladri. Sull'home page del Sole 24 Ore Online, quindi su internet, sapete che tratto di temi di legalità e criminalità organizzata. L'ultima informazione è quella relativa alla possibilità di scaricare le tante puntate che sono sul nostro sito radio24.it, moltissime magari anche attinenti a problemi che si hanno e che si vorrebbero sottoporre a questa trasmissione. Allora, molte volte nel passato abbiamo parlato, e molte altre trasmissioni di questa stessa radio parlano, di furto d'identità. I giornali affrontano spessissimo l'argomento, però verosimilmente non è mai abbastanza quanto si fa l'informazione che si rende, perché il fenomeno è in, non so se in crescita, poi lo sentiremo, ma è comunque vivo e vegeto. Allora, per parlare noi abbiamo chiamato un nome notissimo al lettori del Sole 24 Ore e ai radioascoltatori di questa radio, che è il colonnello della Guardia di Finanza Umberto Rapetto, che è il comandante del nucleo speciale frodi telematiche. Buongiorno colonnello Rapetto. Buona giornata a voi e agli ascoltatori. E abbiamo chiamato Mario, un radioascoltatore che appunto ci ha fatto presente proprio sotto Natale un caso che lo ha riguardato. Buongiorno Mario. Buongiorno. Lo chiamiamo soltanto Mario perché, come potete facilmente capire dopo il racconto della sua storia, c'è un'indagine in corso e quindi di più non si può dire quanto alle generalità della persona, del radioascoltatore che ci ha scritto. Mario, allora, ci può raccontare la storia di cui lei è stato vittima? Prego Mario. Io ho subito un furto d'identità nel 2009, ricevo una lettera da una finanziaria che mi chiedeva una somma di 7.300 euro con allegato un contratto di un fido che mi sarebbe stato fatto per l'acquisto di una moto. Premetto che i soli dati veri erano nome, cognome e codice fiscale. Il conto corrente postale era sbagliato, era inesistente. La via, l'indirizzo, il numero civico, eccetera, era tutto falso. Ecco, questo contratto con questa finanziaria era stato stipulato presentando cosa? Cioè, quali generalità erano false, ce l'ha detto, ma c'era anche una sua foto e la foto era rigorosamente di un'altra persona? La foto non c'era, c'era indicato solo il numero della patente, solo, ecco, il numero, quindi la foto non c'era. Quindi non era stata fatta una fotocopia dei documenti, in buona sostanza. Esatto, io ho ricevuto soltanto questa lettera con la richiesta di questa cifra che avrei richiesto come prestito per l'acquisto di una moto. Permetto che sulla moto non ci so andare, ma comunque. Beh, certo, questo. In ogni modo, il falso Mario, dopo sei mesi dal ricevimento di questo, dall'acquisto con questa somma prestata da questa finanziaria, compra la moto e poi dopo sei mesi la rivende a un'altra persona e sostanzialmente richiedono questi soldi a me. Io faccio una denuncia all'autorità giudiziaria e vengo pure a sapere che praticamente la cancellazione di questo motoveicolo a me intestato non si può fare se non c'è, diciamo, un'ordinanza del giudice. Quindi mi reco da un avvocato, faccio scrivere alla finanziaria e finora ho speso circa 1.000 euro. Ecco. Quindi un cittadino che si trova una lettera di una finanziaria, potrebbe essere una banca o chiunque altro, per una moto mai acquistata, è, come dire, costretto poi anche a pagare di tasca propria per dire ai soggetti coinvolti, finanziaria, PRA, motorizzazione, guardate che non vi ho chiesto niente, guardate che quella moto non è mia, quindi oltre il danno anche la beffa. Colonnello Rapetto, quanto è diffuso questo fenomeno? Dicevo prima, non so se sia aumentato, se sia in diminuzione, a lei il commento e l'analisi. Purtroppo è un fenomeno in costante crescita che sta avendo le manifestazioni più diverse, quasi a comprovare, se vogliamo, una fantasia particolarmente effervescente di chi si è reso conto che è più facile rubare l'identità che non un singolo oggetto. E poi è così semplice e fruttuoso, purtroppo, agire in nome per conto di altri, compiendo le azioni più diverse che possono andare dalla compravendita di un bene fino a al compimento di chissà quale altra condotta che vedrà poi responsabile il soggetto cui determinati fatti sono, anche se in maniera errata, riconducibili. Ecco, io prima ho fatto una domanda ingenua da persona ignorante quali sono, e lo ripeto spesso perché solo l'ignoranza che può spingere una persona a capire, a conoscere i fenomeni. Il giornalista è il più grande degli ignoranti e deve avere questa consapevolezza. Quindi da ignorante ho fatto una domanda, cioè ho chiesto al nostro radioascoltatore Mario se oltre alle generalità ci fossero tra i documenti che furono presentati per l'acquisto anche foto o altro. Allora mi chiedo quali sono, colonnello Rapetto, magari per chi si fa tramite una finanziaria o per chi vende un prodotto, quindi il commerciante, le regole da condotta da seguire per rendere poi magari anche più facile il percorso di ricerca delle persone che non c'entrano assolutamente nulla con quella compravendita, con quella richiesta di accensione di un mutuo. Ad esempio, una fotocopia della carta d'identità o della patente, qualcosa di utile o di inutile? Se la fotocopia viene fatta dal documento originale, dal soggetto venditore, allora c'è da immaginare che abbia avuto tra le mani qualcosa di facilmente riconoscibile se è stato oggetto di alterazione. Invece bisogna stare alla larga da tutti quei clienti che arrivano e che per comodità dicono: le ho già preparato la fotocopia della mia patente, e magari dicono di averla smarrita e la abbinano a quel pezzo di carta un altro foglio, che è quello della denuncia di smarrimento del documento originale. Naturalmente è facile immaginare che chiunque si presenti in un ufficio di polizia e dica: devo denunciare lo smarrimento della patente, non viene certo sottoposto al DNA, e quindi uno potenzialmente può denunciare lo smarrimento di qualunque documento, di qualunque persona. Allora, determinate transazioni dovrebbero aver luogo solo dopo l'effettiva identificazione del soggetto, che deve poggiare su strumenti di uso abituale, saranno la patente, la carta d'identità o il passaporto, ma veri, e quindi non oggetto di manipolazione. Certo, certo. Una fotocopia o una stampa di un documento preso a scanner e poi ripulito e, se vogliamo, rivisitato nel suo contenuto. Certo. Purtroppo il fenomeno sta dilagando. Noi abbiamo fatto una serie di operazioni di servizio che hanno visto il nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di Finanza in prima linea, e abbiamo constatato che la raccolta di dati relativi a soggetti terzi varia nelle sue modalità di esecuzione in maniera particolarmente preoccupante. Moltissimi soggetti, noi abbiamo catturato un criminale, perché chiamarlo pirata informatico, certo, sarebbe forse riduttivo, certo, il profilo, che aveva recuperato in internet gli iscritti all'ordine degli avvocati, e con quelle informazioni, tenete conto, qualunque albo professionale consente di disporre del nome, del cognome, del luogo, della data di nascita, elementi questi sufficienti poi a generare il codice fiscale, nonché l'indirizzo, naturalmente questo consente di acquisire quel numero di informazioni sufficienti per sostituirsi ad un altro. E allora ecco perché è importante che si faccia riferimento sempre a documenti certi e, se vogliamo, ad un'analisi anche visiva molto critica per capire: ma è davvero lui quello che certo. Potrebbe essere un documento di cui è stato magari rubato, su cui è stata rimossa la fotografia originale e appiccicata a quella del soggetto che abbiamo in quel momento di fronte. E questo è correttissimo quello che ci sta dicendo il colonnello Rapetto, che nel frattempo ringrazio per il suo intervento, perché una maggiore attenzione da parte di chi vende o una maggiore attenzione da parte di chi poi fa da intermediario finanziario permette probabilmente di abbassare di una percentuale che non siamo in grado di definire, ma comunque consistente, anche i casi che poi sono accaduti al nostro radioascoltatore Mario, che ha avuto la gentilezza di raccontare la sua storia anche per mettere altri in guardia dai rischi e soprattutto dai danni che si subiscono, perché, come abbiamo sentito, lui è ancora in mezzo, diciamo, a pratiche burocratiche, e finora ha speso di tasca sua 1.000 euro per dimostrare che